E allora, siamo in diretta con un compagno dalla Valsusa che ci racconta un pochino quello che sta succedendo. Ciao, sei in onda? Ciao, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa. E questa mattina qui in Valsusa una nuova giornata di lotta intensa e durissima anche questa volta. E da questa mattina alle 6:30 praticamente le forze dell'ordine hanno scortato gli operai per procedere a un ulteriore allargamento del fortino, iniziando così a recintare anche la parte di diciamo così, di bosco che attorna la baita della Maddalena, che poi è l'area dove inizierà il cantiere. Le recinzioni sono nella, diciamo così, nell'area che appartiene alla SITAF ed è sostanzialmente appunto un allargamento militare che non corrisponde però all'area dove verranno poi effettuati i primi scavi, insomma. E sin dalle prime luci dell'alba praticamente i compagni ma anche la gente della valle, che da settimane ormai ha ripreso ha cominciato a organizzare una nuova resistenza, così come è avvenuto esattamente la settimana scorsa di martedì, insomma. Ci sono alcune centinaia di persone che stanno attorniando le recinzioni che gli operai della ditta stanno installando, e poi ci sono una serie di unità mobili che stanno disturbando, diciamo così, tutta l'area del fortino attorno. La polizia sta usando in alcuni punti di questo perimetro ormai lunghissimo rispetto a quello che avevamo conosciuto al 3 luglio, in alcune zone sta usando idranti e lacrimogeni, pensiamo ai CS, mentre intorno alla recinzione praticamente invece manifestanti, gente anche con la bandiera in OTAV, insomma, stanno cominciando a concentrarsi per comunque disturbare l'operato delle forze dell'ordine, che sono molto sfilacciate attorno a questo fortino, insomma. Si preannuncia una giornata lunghissima come quella di martedì scorso, che vi ricordo iniziò appunto con l'allargamento di questo, con l'allargamento del fortino, iniziò anche qui all'alba e terminò alle 2 di notte con tutta una serie di iniziative e di azioni che diciamo così hanno di fatto ritardato l'esecuzione di questi lavori, e che culminarono con il blocco dell'autostrada Torino-Bardonecchia, insomma. E piano piano sta cominciando anche ad arrivare gente dalla valle, insomma, svegliata questa mattina, nonostante sia una comunque giornata lavorativa. Al momento c'è un fermo, sappiamo che questa mattina proprio all'inizio dei lavori una compagna ha tentato di bloccare una ruspa provando a salire su, come è stato fatto la scorsa settimana, ma non è riuscita in questa sua azione e al momento è in stato di fermo. Questa iniziativa è, diciamo così, l'ennesima, insomma, tentativo di resistenza. Già tutta la settimana scorsa, insomma, sono state fatte iniziative in giro per la valle e altre ne sono in programma da qui alla fine della settimana, insomma. Questa è un po' la cronaca di questa mattinata, che ricordo si preannuncia lunghissima e anche qui abbastanza difficile. Ripeto, in alcune zone di lungo perimetro le forze dell'ordine stanno utilizzando gas CS e idranti per impedire appunto ai manifestanti di tagliare le reti, insomma. Va bene, ti ringraziamo per la corrispondenza. Noi continuiamo a seguire in diretta quello che succede. Naturalmente, se ci sono aggiornamenti, ci risentiamo. Sì, considerare che per tutto il bosco, insomma, ci sono, tra virgolette, unità ribelli che stanno cercando di disturbare questa azione, insomma. Noi siamo in una zona dove insieme a molte persone anche di tante età diverse, che stanno cercando, insomma, di fare in modo che gli operai non riprendano il lavoro, insomma. Va bene, e comunque credo che, come appunto consideravano anche altri compagni,